Benvenuto. Questa è la guida operativa per le emergenze. È stata pensata per fornire informazioni chiare, immediate e accessibili su come comportarsi in caso di emergenza. Le situazioni di emergenza possono verificarsi in qualsiasi momento. Conoscere in anticipo cosa fare riduce il rischio, aumenta la sicurezza personale e collettiva e permette di agire con maggiore calma. Questa guida può essere consultata leggendo, ascoltando l'audio o guardando i video collegati. Usala con calma, come formazione oppure come ripasso quando necessario. Buona formazione. Sapere cosa fare durante un'emergenza serve per aiutarti a sentirti più sicuro quando ti trovi all'interno del centro. A volte possono succedere situazioni impreviste. Queste situazioni si chiamano emergenze. Un'emergenza può essere un incendio, un terremoto o un'altra situazione di pericolo. Ricorda una cosa importante. Nel centro sono sempre presenti gli educatori. Gli educatori sono qui per aiutarti, darti indicazioni chiare e accompagnarti in sicurezza. Quando si verifica un'emergenza, l'educatore responsabile avvisa tutti che bisogna seguire le procedure di emergenza. Le procedure di emergenza sono tutte le azioni corrette da fare in caso di pericolo. Le conoscerai studiando questa guida e partecipando alle prove di emergenza. L'avviso che c'è un'emergenza in atto avviene con un fischietto. 3 fischi continui significano che c'è un'emergenza. Se senti 3 fischi continui, smetti subito di fare quello che stavi facendo, ascolta gli educatori e segui tutte le regole che hai imparato. In ogni emergenza, alcune regole sono sempre valide. Mantieni la calma e cerca di respirare lentamente. Segui la segnaletica presente nell'ambiente. Ascolta sempre le indicazioni degli educatori o dei responsabili. Non correre, non spingere, non metterti in pericolo, non utilizzare mai gli ascensori. Seguire queste regole aiuta a proteggere te stesso e le altre persone. In questa guida vengono approfondite 2 emergenze principali: l'emergenza incendio e l'emergenza terremoto. Ora ascolterai le indicazioni su come comportarti in caso di incendio. Un incendio può creare fumo, calore e paura. Nel centro sono sempre presenti gli educatori. Gli educatori ti aiutano e ti dicono cosa fare. Segui sempre le loro indicazioni. In caso di incendio, mantieni la calma. Respira piano. Non correre. Non urlare. Avvisa subito un educatore se vedi fumo, se vedi fuoco o se senti odore di bruciato. Segui sempre gli educatori. Ascolta quello che dicono. Fai quello che ti indicano. Rimani con il gruppo. Se devi uscire dall'edificio, cammina con calma. Segui i cartelli di uscita. Se c'è fumo, cammina chinato. Se puoi, copri bocca e naso. Se non puoi uscire, perché il pericolo è proprio dove dovresti passare per raggiungere l'esterno, rimani nella stanza e chiudi bene la porta. Se puoi, metti un panno o dei vestiti bagnati sotto la porta. Non aprire le finestre. Aspetta un educatore o i soccorsi. È molto importante ricordare queste cose per non metterti in pericolo. Non usare l'ascensore. Non tornare indietro a prendere oggetti. Non allontanarti da solo. Gli educatori sono qui per aiutarti. Ora che hai ascoltato le regole da rispettare in caso di incendio, andiamo avanti. Ti parlerò di quali sono le indicazioni su come comportarti in caso di terremoto. Il terremoto arriva senza avviso. Può durare pochi secondi. Può spaventare. Sapere cosa fare prima aiuta ad avere meno paura, a non farsi male e ad aiutare anche gli altri. Durante il terremoto mantieni la calma. Non correre, non urlare, non spingere, non fare di testa tua. Segui sempre gli educatori. Se sei dentro l'edificio, rimani dove sei. Non correre verso l'uscita. Non usare l'ascensore. La prima cosa che devi fare è proteggiti subito. Abbassati e copri la testa con le braccia, se puoi. Mettiti sotto un tavolo o una scrivania. Se non c'è un tavolo, mettiti vicino a un muro solido. Allontanati da finestre, vetri, armadi, lampadari e oggetti che possono cadere. Quando la scossa finisce, rimani calmo. Aspetta le indicazioni degli educatori. Cammina con calma. Segui le uscite indicate. Non tornare indietro a prendere oggetti. Una volta fuori dall'edificio, vai nel punto di raccolta. Rimani con il gruppo. Non rientrare. Aspetta che gli educatori ti dicano cosa fare. Non usare l'ascensore. Non gridare. Non spingere. Non allontanarti da solo. Non rientrare senza permesso. Gli educatori sono qui per aiutarti. Tu non sei solo. Seguire queste regole ti protegge, protegge gli altri e rende il centro più sicuro. Come vedi, le regole da seguire non sono difficili, ma sono molto importanti. Di tanto in tanto è bene ripassarle per ricordarle nel momento del bisogno. Per questo, al centro troverai dei poster con indicazioni rapide e un QR code. Ora ti spiego a cosa serve e come usarlo. Questo QR code è stato posizionato nei punti di sicurezza del centro, per esempio sotto l'architrave delle porte. Il QR serve per aiutarti a ricordare come comportarti in caso di emergenza. Serve soprattutto per ripassare le regole di sicurezza, ricordare cosa fare e sentirsi più sicuri. Usare il QR prima di un'emergenza aiuta ad avere meno paura, a reagire meglio e a non farsi male. Puoi usare il QR quando sei tranquillo, per ripassare con calma. Puoi usarlo prima che succeda un'emergenza. In caso di vera emergenza, ascolta sempre prima gli educatori e segui le loro indicazioni. Il QR è un aiuto in più, non sostituisce gli educatori. Ma come si usa il QR? Usare il QR è facile. Apri la fotocamera del telefono. Inquadra il QR. Tocca il link che appare. Si apre una pagina semplice. In questa pagina trovi pulsanti grandi e chiari, istruzioni facili e la possibilità di ascoltare le regole per incendio e terremoto. C'è un pulsante per il terremoto e un pulsante per l'incendio. Premendo un pulsante, puoi ascoltare le regole principali e ripassare con calma. Da questa pagina puoi anche accedere alla guida completa alle emergenze. La guida completa serve per imparare meglio, allenarsi e ripassare quando vuoi. Ricorda sempre, gli educatori sono sempre presenti. Il QR serve per imparare e ricordare, ma non sostituisce gli educatori. Prima di concludere, è importante sapere una cosa in più. Se durante un'emergenza ti trovi da solo e hai bisogno di aiuto immediato, puoi chiamare il numero di emergenza 112. Ripetiamolo insieme, con calma. 112. Quando chiami 112, risponde un operatore. L'operatore è una persona preparata per aiutarti e per capire subito la situazione. Ti farà delle domande semplici, per sapere dove ti trovi e che cosa sta succedendo. Ascolta con calma e rispondi lentamente. Non devi avere paura. Anche se sei agitato o fai fatica a parlare, l'operatore di 112 ti guiderà passo dopo passo e attiverà i soccorsi necessari. Rimani al telefono finché ti viene detto di farlo. Segui le indicazioni che ti vengono date. Ricorda, chiedere aiuto è giusto. 112. Non sei solo. L'aiuto può arrivare.